La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, e in questi pomeriggi di inizio anno, aspettando, insomma, che posso dire, che la cronaca si riavvi un po', facciamo anche qualche riflessione un pochino più di fondo rispetto alle nostre puntate ordinarie in cui inseguiamo, come giusto, la cronaca giornaliera e le vostre opinioni. Allora, oggi lo facciamo dedicando la nostra attenzione, oggi pomeriggio, ad uno dei temi sui quali da mesi, a dire la verità, il governo aveva fatto capire che sarebbe intervenuto, e via via nel tempo invece l'intervento su questo settore, che è un settore bello pesante nella vita pubblica italiana, in realtà poi l'intervento non è venuto. Le ultime, tra virgolette, promesse, chiuse virgolette, del governo sono relative a un intervento nella prossima primavera. Questa è stata la parola usata ancora il 18 dicembre dal relatore della legge di stabilità, prima che si arrivasse a chiudere poi la legge di stabilità. E parliamo soprattutto oggi delle società controllate e partecipate a livello locale, municipalizzate, ma anche quelle delle regioni. È un comparto, se ricordate, sul quale si era misurato tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 l'allora commissario straordinario alla revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, che ricordate poi, insomma, non ha avuto molta fortuna con il governo Renzi. Carlo Cottarelli tra marzo e aprile ci ha consegnato una ricognizione stratigrafica molto precisa delle circa 10.000 partecipate di primo livello tra comune, province e regioni, dividendole, classificandole per tipologia, cioè cosa fanno, per fatturato, dipendenti, quanto perdono, quanto non perdono, naturalmente in che settore sono attivi e così via. E formulando poi anche una serie di proposte molto dettagliate, che a me, devo dire la verità, piacquero molto all'epoca. Pensate che le 52 misure che propose Carlo Cottarelli erano praticamente a uno stadio già di prestesura dei testi, e quindi quelli come me, che hanno speranza che si intervenga su questo settore, hanno immaginato che potesse essere la volta buona nel nostro paese. E invece la scelta è stata quella di rinviare da parte del governo. Era evidente che Renzi, ex sindaco, aveva qualche cautela nell'intervenire su questo argomento con una norma centrale senza confrontarsi molto approfonditamente con l'ANCI e con la conferenza delle regioni. Sta di fatto che poi, con i tagli chiesti a comuni e regioni in legge di stabilità, con il confronto con le autonomie su come diminuire quei tagli, con il confronto su il gettito da mattoni per i comuni di IMU e TASI, e con la richiesta dei comuni di passare subito a definire anche la local tax, che comunque ci arriverà tra capo e collo quest'anno e sarà la successiva evoluzione di IMU e TASI, sta di fatto che le partecipate locali non sono state toccate. Quando è successa la vicenda dell'indagine a Roma, Mafia Capitale, ecco che Renzi ha detto: no, riacceleriamo e prendiamo in mano il capitolo. Se non che si è capito anche lì, dopo qualche giorno, che passerà ancora qualche mese. Allora, abbiamo deciso oggi di riflettere su questo argomento con un osservatore terzo, per così dire, anzi, con un'autorità terza, che spesso negli ultimi anni, nelle sue attività istituzionali, non come cittadino esprimendo la sua opinione, ma nella sua attività istituzionale, richiama e ha richiamato l'attenzione su questo, perché è con noi, io molto lo ringrazio, il presidente dell'autorità di garanzia concorrenza e mercati, quello che, insomma, passa come l'autorità antitrust, il professor Giovanni Pietruzzella. Buon pomeriggio e grazie, presidente. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Allora, ancora a giugno, lei nella relazione annuale che consegna ai mercati e alle istituzioni, e che dovrebbe essere poi l'ossatura di una legge sulla concorrenza annuale che negli ultimi anni i governi, invece di adempiere come impegno che dovrebbero fare, dimenticano di fare, lei ha pronunciato delle parole su questo argomento molto, molto serie, per così dire. Io ne leggo qualche passaggio a chi è in ascolto, perché ovviamente non possiamo dare per scontato che chi è in ascolto sappia o ricordi che l'autorità antitrust si occupa e come di questi temi. E lei disse all'epoca: non solo la crescita a livello locale, ma anche lo sviluppo di utilities che potrebbero produrre ricchezza per il paese sono in tanti casi bloccati dal capitalismo municipale, basato sulla connessione tra apparati e società da essi controllate o partecipate, che erogano servizi pubblici o attività strumentali. E poi continuava: occorre procedere a un'opera di riordino radicale delle società pubbliche, prevedendo dismissioni o comunque l'impossibilità di rinnovare gli affidamenti per quelle società che registrano perdite o forniscono beni e servizi a prezzi superiori di quelli del mercato. Sembrano altresì maturi i tempi per inserire nell'agenda delle riforme la disciplina dei servizi pubblici locali, superando l'approccio tradizionale basato su un modello generale ed elaborando discipline particolari adeguate alla natura dei diversi servizi da offrire, in modo da aprire spazio alla concorrenza in quegli ambiti in cui non trova giustificazione tecnica il mantenimento dei diritti di esclusiva e valorizzando negli altri la concorrenza per il mercato. Ecco, io mi fermo qua. Le chiedo, sono passati mesi da quando ha parlato, qual è oggi la sua impressione? Che cosa si attende che si possa fare? E soprattutto entriamo nel merito, nello spiegare alla gente che non è ferrata tecnicamente, almeno alcuni di questi aspetti che nella lettura per sintesi tocchiamo. Perché parlare delle municipalizzate significa appunto identificare i criteri nei quali ha senso mantenerle e altre in cui vanno dismesse. Quale può essere il criterio? Significa ricordare come avviene il regime generale degli affidamenti e quanto estese siano le eccezioni, come quelle per le gare. E abbiamo visto a Roma gli affidamenti a soggetti terzi, alle cooperative, vengono fatti per un importo che in teoria ha violato già oggi le leggi vigenti, tranne il fatto che veniva praticato per anni senza che nessuno se ne accorgesse. Insomma, a che punto siamo, Presidente? Certamente è convinzione profonda dell'antitrust che bisogna mettere mano a questo settore per varie ragioni. Innanzitutto perché pesa in modo negativo sui bilanci pubblici, e ricordo che in circa il 30% dei casi queste società sono società stabilmente in perdita, quindi vengono a bruciare risorse pubbliche che poi sono le tasse che pagano i cittadini o i contributi che i cittadini danno quando utilizzano un servizio. Ma c'è di più, crediamo come antitrust che sia necessario intervenire nel settore, perché la presenza di questi soggetti pubblici impedisce lo sviluppo di un'economia basata sulla libera iniziativa che potrebbe produrre ricchezza vera. Quindi non c'è soltanto il dato dello spreco di risorse, c'è dall'altro lato il fatto che queste società sono alla fine una palla al piede del paese, impedendo quella ripresa di un sentiero di crescita che è indispensabile. E poi appunto sono fonte anche di corruzione, lo vediamo ora nei fatti di Roma Capitale, ma ci sono stati tanti altri episodi, questo forse è il più eclatante, e dove appunto la creazione di rapporti perversi tra comuni o province o regioni, appunto, da una parte, dall'altro lato queste società, e può dar luogo a tanti problemi, anche perché appunto c'è un tema delle società pubbliche, c'è, come si vede nel caso di Roma Capitale, il tema degli affidamenti. Che cosa succede in sostanza? Alcuni di questi affidamenti sono fatti senza gara, senza che ci siano le condizioni previste dal diritto europeo, che sono rigorosissime, per poter procedere all'affidamento senza gara, come si dice l'affidamento in house. Allora, che cosa si può fare? Ma innanzitutto bisognerebbe intervenire con delle regole, e noi le abbiamo proposte da tempo, ma insomma il dibattito ormai anche Confindustria e da tanti altri settori sono venute proposte di diverso tipo, le citava il rapporto Cottarelli per esempio, e lì bisognerebbe evitare che continuino a operare quelle società sistematicamente in perdita. Bisognerebbe prevedere che l'eventuale richiaramento sia fatto alle stesse condizioni che farebbe un qualsiasi operatore di mercato. Insomma, si mettono i quattrini nella società solamente se un qualsiasi imprenditore farebbe la stessa cosa, perché ritiene che poi quei quattrini potranno appunto creare nuova ricchezza e potranno fornire i servizi, non buttandole in un fondo perduto dove tutto viene sciupato. E soprattutto bisognerebbe limitare i diritti di privativa, cioè attualmente alcuni servizi, pensate allo smaltimento dei rifiuti, alla raccolta, vengono fatti di un solo soggetto, un settore in situazione di monopolio. Probabilmente anche lì c'è spazio per aprire alla concorrenza. Finisco ricordando una cosa: in Gran Bretagna, nel trasporto pubblico locale, il ricorso sistematico alla gara ha portato una riduzione dei costi di circa il 50%, e lo stesso è avvenuto nei paesi scandinavi, quindi c'è tanto da fare. Sui tempi mi auguro che l'ipotesi della primavera, capisco che in questo momento c'è tanta carne al fuoco e le riforme sono, tante riforme sono importanti, però questo tema non può essere nascosto e spero che in tempi ragionevolmente brevi venga affrontato. Allora, io ricordo a chi è in ascolto che quando si parla di società regolarmente in perdita, noi abbiamo degli esempi eclatanti. Se risfogliate le slide di Cottarelli di 9 mesi fa, troverete che nella classificazione delle partecipate controllate locali che più sono in perdita sul totale, troverete due municipalizzate romane che sono, per così dire, pecora nera, no? Negli ultimi anni, sono l'ATAC e l'AMA, quindi l'azienda municipalizzata del trasporto è quella dei rifiuti. L'ATAC è da 11 anni che ha bilanci in perdita consecutivamente, e le perdite sono arrivate nel più di questi anni a superare i 3/4 dei ricavi da biglietti e mercato. Quindi stiamo parlando di perdite complessivamente sommate per miliardi. Ecco, allora, naturalmente dire cessione e dismissione di società in perdita sistematica significa colpire nella carne viva l'organizzazione attuale di queste partecipate. Poi non sono tutte così, quelle quotate, le grandi multi-utilities pubbliche se la cavano meglio e così via, però davvero io vi rinvio a quei documenti che sono stati fino a pochi mesi fa sul portale del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ultimamente ne sono spariti un po', per così dire, ed è un peccato, perché per esempio trovereste, a proposito, ma che senso ha in molti settori che ci siano le società controllate, avreste trovato la disaggregazione per la quale di quelle 10.000 di primo livello partecipate e controllate, solo meno di un terzo è attivo nei 5 settori tradizionali delle municipalizzate, cioè l'acqua, il gas, l'elettricità, i rifiuti e il trasporto, mentre i 2/3 sono in settori che non c'entrano niente con tutto quello, e la stragrande maggioranza delle 3.000 che sono attive nei 5 settori tradizionali dell'offerta di servizi pubblici locali, la stragrande maggioranza hanno una dimensione di fatturato e di impresa totalmente così piccola che è totalmente incompatibile con la possibilità di avere un'efficienza. Allora, la domanda successiva che faccio a Petruzzella, al presidente dell'antitrust, per sapere come la pensa, è che Cottarelli, tra le tante altre cose, proponeva una cosa che derivava addirittura dal fondatore delle municipalizzate in Italia, perché le municipalizzate in Italia iniziano ai primissimi anni del Novecento con Giovanni Giolitti addirittura. E Cottarelli diceva: perché non prevedere che tutti i comuni e le regioni italiane debbano rideliberare la ragione dell'esistenza in vita di una controllata attuale, spiegando come e perché secondo loro lo stesso servizio non può essere offerto meglio da privati. E questa delibera, una volta che l'hanno approvata, diceva Cottarelli, dovrebbe essere sottoposta, per essere vigente, cioè per essere pienamente in vigore come conferma, a un giudizio dell'autorità antitrust, cioè vostra, Petruzzella. Lei che direbbe di fronte a una riforma di questo tipo? Io sono totalmente d'accordo, innanzitutto perché darebbe trasparenza al processo di scelta di una società partecipata. Il comune decide di ricorrere a una società partecipata, bisogna capire le ragioni economiche di efficienza per cui ricorre, non evitando che invece sia uno strumento clientelare o peggio ancora uno strumento per alimentare la corruzione. Quindi ogni meccanismo che introduce trasparenza è utile, costringerebbe i consigli comunali e le giunte a confrontarsi su problemi reali e a spiegare le loro ragioni. Dall'altro lato ci sarebbe l'intervento di un'autorità terza che dovrebbe vagliare il tipo di analisi economica che viene fatto. Scopriremmo che in molti casi non c'è bisogno di ricorrere a una società pubblica e in molti casi non c'è bisogno di ricorrere alla esclusiva, perché in tutti questi ipotesi la società toglie spazio al mercato. Ah, certo. E il contrario, ci potrebbe essere un gioco concorrenziale, ripeto, creando lavoro vero, che è quello che serve soprattutto nelle aree in cui si ricorre di più a questi strumenti e soprattutto nel Mezzogiorno. La la versione di Oscar. Eccoci qui, tornati a parlare di controllate partecipate locali, il socialismo municipale, per così dire, di cui aspettiamo adesso, è un po' slittata la promessa da parte del governo di occuparsene dopo l'esplosione delle indagini di Roma Capitale. Il dossier è stato riaperto, con Cottarelli non è stato aperto, ma ne parliamo con il presidente dell'antitrust, Giovanni Pietruzzella. Allora, c'è un settore tra tutti quelli tradizionali di cui si occupano le municipalizzate, quello della raccolta rifiuti, di cui chi è a casa probabilmente ignora che, mentre noi abbiamo autorità con specifica competenza che si occupano dell'acqua, che si occupano dell'elettricità e così via, uno di questi settori che molto ha fatto parlare le cronache e le indagini poi in vaste parti d'Italia, cioè quello della raccolta rifiuti, non è sottoposto a una specifica disciplina e all'attenzione, alla vigilanza di una autorità. E da anni, anche qui Cottarelli faceva una proposta precisa, con quello che è successo nella raccolta rifiuti, e cioè intrecci tra politica, malaffare, costi di trattamento e procedure di smaltimento totalmente in violazione della legge. Ricordiamo che cosa è successo nella regione Campania per anni su questo, tutti gli scandali, le indagini, gli interventi della Corte dei Conti su chi ha amministrato la regione Campania. Eppure questo settore, per una ragione o per l'altra, non ha una specifica disciplina e vigilanza. Come mai, secondo lei, presidente dell'antitrust? Ma certamente per le stesse ragioni per cui non sono state fatte riforme in altri settori come quello del trasporto pubblico locale. Gli interessi sono forti, le lobby sono potenti e non sono riuscite a paralizzare qualsiasi processo di riforma. E qui anche il settore dei servizi pubblici locali, del servizio dei rifiuti, è un settore che si potrebbe aprire alla concorrenza, cioè potrebbero esistere in alcuni elementi della filiera di raccolta più operatori in concorrenza tra di loro, e comunque quando c'è un solo operatore occorrerebbe ricorrere a una gara vera. Anche qui ci sono tanti affidamenti diretti senza che ricorrano le condizioni previste dal diritto europeo per l'affidamento diretto. Noi parliamo in questi giorni dello scandalo di Roma Capitale, però questi scandali, questi fenomeni di corruzione non ci sarebbero in misura ridotta rispetto all'attuale qualora ci fossero regole diverse. Quindi le riforme sono necessarie, sono indispensabili, non solo per abbattere il sistema e ridurre e stoltire quel sistema delle società a totale o parziale partecipazione dei comuni e delle regioni, ma anche, ripeto, per aprire questi settori alla concorrenza, ricreare efficienza. E nel settore dei rifiuti abbiamo visto quanti scandali ci sono stati. Ricordo poi una cosa: l'autorità antitrust nei settori di cui abbiamo parlato, dal trasporto pubblico locale ai rifiuti, è intervenuta nell'esercizio dei suoi poteri, aprendo indagini e sanzionando, facendo talora ricorso al TAR, per esempio ricorso al TAR contro un affidamento diretto alla società che gestisce a Roma il trasporto locale. Però appunto, se non cambiamo le regole, ci troveremo sempre a dover rincorrere delle patologie. Le regole quindi vanno modificate. Nella sua esperienza, il fatto che le decisioni politiche su tutto ciò che riguarda la presenza o l'intervento diretto delle emanazioni dello Stato a livello locale in settore di mercato non nascano da una procedura anche di confronto preventivo con voi, perché credo che nell'ordinario quasi nessuno, prima di prendere una decisione su queste materie, alzi il telefono, senta i vostri uffici o senta i componenti dell'autorità, a cominciare da lei. Magari ci sono eccezioni, lei ci dirà, non voglio sapere i nomi e cognomi, dico se sono percentualmente diffuse o meno, ma credo che questa questione dipenda anche tutto sommato da una mancanza di sensibilità proprio di chi fa politica e ricopre incarichi amministrativi, per così dire. Perché mentre io posso capire che l'opinione pubblica, chi non è versato in materia economica, in dottrina della concorrenza, la complessità di questa materia gli sfugga, però che un politico decida come avviene in ogni comune ogni anno sulle partecipate senza prima confrontarvi con voi, a me sembra innanzitutto una lacuna culturale. Mi sbaglio, secondo lei, e quindi bisogna pensare male, che è peggio, espressione di malafede, o c'è questa lacuna culturale che ci amministra? certamente esiste una grande lacuna culturale, che purtroppo poi è una lacuna culturale del paese, cioè la mancata attenzione ai meccanismi di mercato, che possono essere meccanismi che creano eguaglianza vera, perché in questo modo appunto ci avremo, a causa di queste partecipate così malconce, dei servizi inefficienti, per cui proprio le fasce che ne hanno più bisogno avranno minore tutela dei loro diritti. Però nel paese manca questa cultura di mercato, manca anche nella dirigenza locale, politica locale. Occorrerebbe probabilmente, se riprendendo quel suggerimento di Cottarelli che lei citava anche all'inizio, introdurre una norma che renda necessaria, esatto, un'analisi economica e poi appunto una verifica da parte di un'istanza terza come l'autorità antitrust. Ripeto, le regole servono perché altrimenti appunto servono anche a cambiare la cultura economica del paese. Lei sa, insegna per così dire a gente come me, che noi abbiamo avuto decenni di amministrazione della presenza pubblica nell'economia. C'è stato un presidente famosissimo dell'IRI negli anni 70, si chiamava Petrilli, che teorizzò addirittura la necessità che la mano pubblica nell'economia dovesse affrontare i cosiddetti oneri impropri. Cioè Petrilli diceva che l'IRI non deve affatto guadagnare con le sue società controllate, perché pur di dare occupazione, questa specie di onere improprio economico è in realtà uno dei fondamenti del motivo per cui la mano pubblica sta nell'economia. Quelle considerazioni quanto sono ancora diffuse in chi ci amministra? Ma purtroppo sono diffuse, ma sono delle considerazioni oggi estremamente pericolose, perché anche a causa di questa idea, il paese si trova ancora in recessione. Noi dobbiamo riprendere un cammino diverso, un cammino che crei crescita economica, che produca ricchezza e in questo modo crei del lavoro vero, perché al contrario società come quelle di cui ci occupiamo, non tutte per la verità, perché esistono anche le società municipali che funzionano e sono degli esempi di efficienza, però molte di queste... La TM a Milano per esempio ha il segno più nel bilancio, per esempio. Esatto, per esempio, però appunto ce ne sono più d'una, però molte altre, come abbiamo visto, sciupano ricchezza, che è la ricchezza dei cittadini, quindi tolgono soldi ai cittadini e alle imprese che potrebbero essere utilizzati per rilanciare l'economia e vengono appunto bruciati per mantenere spesso dei posti di lavoro che non servono a nulla. Noi dobbiamo creare nel paese del lavoro vero che serva a rimettere in moto il processo di crescita del prodotto, del prodotto interno lordo. Solo così potremo uscire dalla crisi. E una componente fondamentale, a parere dell'antitrust, per uscire dalla crisi è proprio il settore locale. Il nostro è un paese in cui a livello locale ci sono varie imprese che potrebbero effettivamente svolgere il lavoro che oggi fanno queste società pubbliche, creando, ripeto, meccanismi più efficienti e probabilmente appunto favorendo una vera lotta alla disoccupazione. Quindi ritengo quelle considerazioni da cui siamo partiti sulla creazione di lavoro finto attraverso società che producono in modo inefficiente siano delle considerazioni pericolosissime, oggi spesso appunto esistenti, comunque che ritornano talora, riaffiorano nel dibattito, ma ritengo che siano un grosso ostacolo culturale alla ripresa di un cammino di crescita. Oh, io a chi ci ascolta ricordo che naturalmente per chi volesse approfondire, qui faccio un po' di propaganda di parte, perché io sono senior fellow dell'Istituto Bruno Leoni, se andate sul sito dell'Istituto Bruno Leoni trovate, abbiamo rilasciato 10 giorni fa, 2 settimane fa, la versione annuale del nostro indice delle liberalizzazioni che compriamo ogni anno, con 10 settori di mercato in cui paragoniamo 15 paesi europei con criteri tecnici che vi spieghiamo lì. Insomma, in buona sostanza l'Italia è terz'ultima, in 10 settori trovate quello dei carburanti, l'elettricità, l'energia, il trasporto locale e così via, e l'Italia è molto indietro su molti settori su questo. Questo non si deve all'antitrust, si deve purtroppo al ritardo della politica su questo. La legge per la concorrenza anche quest'anno, l'hanno appena finito, 2014, non c'è stata. Una domanda, per così dire, da serpentello al presidente dell'antitrust. È 2 anni che si è rimessa in moto la riforma di come voi vi procurate i proventi finanziari. Alcuni pensano che procurandoveli dai soggetti, per così dire, vigilati e regolati, i casi sono 2. O campata sulle loro spalle, oppure c'è un rischio di cattura del regolatore, diventate captive rispetto ai soggetti regolati. A che punto siamo? Avete risorse abbastanza? E quanto ha torto chi la pensa male? E allora, ricordiamo a chi ci ascolta che l'antitrust non grava per il suo bilancio sulle casse pubbliche, noi non prendiamo soldi allo Stato, c'è un contributo da parte delle aziende, dalle società di capitali con ricavi superiori ai 50 milioni di euro. La legge diceva che questo contributo doveva essere pari allo 0,08 per mille del fatturato, quindi un piccolo contributo spalmato su una vasta platea di soggetti. E ora, noi abbiamo ridotto rispetto a quanto prevede la legge questo contributo portandolo allo 0,06 per mille. Perché? Perché abbiamo fatto un'operazione di spending review al di là di quello che ci chiedeva la legge, andando ben oltre, che ha consentito di tagliare molte spese, quindi riducendo questo contributo che viene pagato dalle aziende. Non c'è il rischio di essere catturati, proprio perché appunto noi non siamo un regolatore di settore, ma ci occupiamo di tutto il mercato, e quindi appunto tutto ciò viene spalmato su migliaia di soggetti, e i dati lo dimostrano. Noi siamo stati, abbiamo applicato direi rigorosamente le sanzioni antitrust contro i cartelli, e ricordo a tutti coloro che ci ascoltano che i cartelli sono un grande male, perché impedisce appunto la concorrenza, fa alzare i prezzi, impedisce l'innovazione. Abbiamo sanzionato alcune imprese ex monopoliste che sfruttavano la posizione dominante, e ricordo per tutti la sanzione di 104 milioni di euro a Telecom. No, ma insomma, i fatti dicono che in effetti non ci andate con la mano leggera, anzi dalla percentuale poi di impugnative non siete catturati. Faccio notare a chi è in ascolto che passare dallo 0,8 allo 0,6 significa erosione di un terzo. Se applicassimo una cosa simile alla spesa pubblica italiana, i nostri problemi non sarebbero risolti, sarebbero strarisolti da quel dì. Comunque, come vedete, sulle municipalizzate bisogna intervenire, e c'è nell'amministrazione pubblica, nell'autorità antitrust, chi ha le idee chiare. Grazie a Petruzzella, continuate con Radio 24.